mattina di Yemen. Ciao, abbiamo un ospite, ciao. Allora, innanzitutto insomma, benvenuto qua negli studi della radio. So che sei un grande ascoltatore della radio, che per la prima volta mi soffiate qua, quindi sono molto contenta. Grazie. Allora, insomma, da cosa vogliamo iniziare? Iniziamo un po' dalla tua storia innanzitutto. Sì, raccontaci un po' come, qual è la tua storia negli ultimi anni, questi ultimi anni passati in Italia. Allora, mi chiamo Aladdin, sono un pittore e scrittore yemenita. Vivo a Roma da 5 anni. Sono dovuto scappare dallo Yemen perché svolgevo un'attività politica contro il regime durante il 2003, 2004, 2005 con vari amici e compagni a Sana'a. E soprattutto era per organizzare un'attività, boicottaggio contro la elezione presidenziale che sono stati fatti nel 2006. Naturalmente non è andata bene per noi, eravamo pochi, proprio quattro gatti, ma adesso questa rivolta che sta questi giorni è un sogno per noi. Insomma, quattro anni fa solo era un sogno, sembrava impossibile, no, ma oggi lo vediamo, insomma. Spero che andrebbe ancora meglio e nel futuro sarà ancora di più, insomma. Quindi diciamo che avete fatto queste, organizzato questa politica per boicottare le elezioni, e che cosa è successo nel 2006? Nel 2006 naturalmente io stavo già qui, tanti amici, compagni miei sono stati arrestati, alcuni hanno dovuto scappare, chi è andato in Egitto, chi è andato in Siria, chi è rimasto lì magari nascosto nella stessa casa o magari da altri amici e compagni. Il presidente ha vinto, questa è una cosa che non è strana, anzi si sapeva, per questo volevamo boicottare l'elezione mettendoci tutti insieme con le striscioni fuori ai seggi elettorali per far vedere che noi non entriamo mai, però allo stesso momento ci siamo e abbiamo le nostre carte che approvano che non abbiamo mai votato, quindi né a questo, né a favore né di uno né dell'altra parte, visto che l'opposizione in Yemen purtroppo non è tanto rappresentativa nemmeno per i nostri sogni o almeno quello che vogliamo per il paese. Quindi tu diciamo ti sei trovato in Italia e improvvisamente è successo che non sei più potuto ritornare nel tuo paese e allo stesso tempo non avevi neanche un permesso o una possibilità di stare in Italia. Sì, quando sono arrivato all'inizio stavo un po' confuso perché avevo ancora tutta la mia mente, tutto il pensiero lì collegato, insomma, a Yemen. Ho cominciato tardi a chiedere l'asilo politico. La risposta come sempre viene data negativa all'inizio, come sempre non danno mai una risposta diretta qui, magari non lo so le altre parti, gli altri paesi europei, però visto che ho scelto Roma di preciso già dall'inizio aspettavo di più, però purtroppo non è andata bene. Il ricorso non l'ho fatto perché veramente ho passato tutto il 2006 a pensare soltanto di questo problema dei documenti, asilo politico, permesso di soggiorno, varie cose, insomma, eccetera eccetera. Ho rifiutato di fare il ricorso, mi sono messo a dipingere, a vagare, insomma, nella città, a trovare qualche cosa da fare, a svolgere la mia attività soprattutto, che mi mancava tanto dopo un stacco. E mi sono trovato clandestino per tanti anni. Per lo Stato italiano eri un clandestino. Sì. E poi ultimamente, negli ultimi anni, mi sono dichiarato, autodichiarato ateo, come lo ero ancora in Yemen prima di arrivare qui, solo che nessuno lo sapeva, nemmeno alcuni amici o alcuni colleghi, o nemmeno la famiglia naturalmente, che è l'ultima da sapere, se può evitare ancora meglio di farle sapere, per esempio, questa storia dell'essere ateo. Esatto, perché non è una cosa che si può dichiarare così facile in lo Yemen. Nello Yemen, insomma, in genere pure nel mondo arabo. Essendo un artista, un personaggio un po' conosciuto in Yemen, ho avuto un premio del presidente in persona nel 2004 come il miglior pittore giovane dell'anno. Naturalmente ho preso il premio, ho accettato, Avevo un certificato fermato dal presidente in persona, ho strappato un fine, ho fatto un articolo, poi un altro scandalo, però tutto questo ho fatto quando ero già qui in Italia, non potevo farlo naturalmente in Yemen. La storia dell'aitismo ha avuto conseguenze gravi, insomma, come aspettavo. Non è una cosa che pensavo che viene accolta bene dalla gente, no, aspettavo che sarà grave, infatti così si è anche un po' esagerata, secondo me. Sono stato varie volte condannato a morte da vari imam, vari moschei, facendo il discorso del venerdì, addirittura parlando di me, facendo una fatwa che chiunque, qualsiasi musulmano, se vuole andare in paradiso, insomma, una via facile e veloce, trovare Aladdin e ammazzarlo subito. Altro poeta del partito islamista yemenita, con un altro amico suo, non ha dichiarato chi, hanno messo una taglia di $50,000 sulla mia testa, che porta la mia testa, la testa di un altro amico giornalista yemenita, uno di pochissimi, sono l'unico anarchico yemenita che pure lui è dovuto scappare dopo di me, è andato in America, adesso in America. Condannandoci a morte, facendo una pagina su Facebook per raccogliere firme per condannarci a morte pure ufficialmente dal tribunale dello Stato yemenita. Le firme su Facebook sono arrivate ultimamente, l'ultima volta che ho visto, quasi 5.000 firme. Lì nel territorio non lo so quante firme sono arrivate a raccogliere, e hanno portato tutto questo al Parlamento yemenita, sapendo da un altro amico che mi ha avvisato: guarda, chi lo stanno proprio parlando al Parlamento yemenita. Però questo stiamo parlando di qualche mese fa, prima dell'ultima rivolta. Adesso naturalmente si parla d'altro, tutt'altro, insomma, per fortuna sto un po' in pace, nessuno mi... Però diciamo che sia te che la tua famiglia non potete rientrare nello Yemen. No, io per niente, mia famiglia poi ha dovuto scappare, tutta famiglia, mio padre, mie sorelle, mio fratello hanno lasciato lo Yemen, sono andato in Giordania. Perché in Yemen hanno avuto un po' di disturbo da varie gente, insomma. Le minacce. Sì, minacce, ci sono pure dei fanatici che sono andati a trovare mio fratello nel suo luogo di lavoro. Sono entrati, l'hanno visto, hanno detto: ma sei tu il fratello di Aladdin? E lui ha risposto: sì. Ah, va bene. E sono andati via. Così sono. Simpatici. Molto simpatici. Senti, raccontaci un po', insomma, questa è la tua storia, però inquadriamola anche un po' nella storia dello Yemen. Allora, lo Yemen era diviso in due fino al 1990. Era lo Yemen del nord, che è uno stato tutto sommato democratico, però nella carta, nella realtà non lo era, non lo è ancora, insomma. E nel sud c'era un altro Yemen democratico, pure quello tutto sommato comunista, era uno dei primi stati comunisti nel mondo arabo. Nel 1962 è stata una rivolta in Yemen nel nord contro l'imamato. L'imamato era praticamente il re, una specie di monarchia religiosa sciita, che è stata la rivolta contro questo imam, naturalmente aspettando il meglio per il paese che poi è andato in deriglio, non è andata mai almeno bene finché non è arrivato questo presidente attuale, questo dittatore nell'87, ha preso il potere dopo vari assassini, strane storie, strani suicidi di vari presidenti prima di lui che non hanno potuto durare. È arrivato lui all'improvviso, un piccolo soldato, ha preso il potere, ha messo subito, naturalmente come si fanno i dittatori che già hanno organizzato tutto, i vari cugini, i vari fratelli, naturalmente il ruolo importante dell'esercito, e ha preso in mano tutto il paese dello Yemen del nord. Nel sud c'era il caos anche, dopo nel 67 c'era una rivolta contro il colonialismo britannico che stava lì. Ha avuto l'indipendenza, poi il Partito Comunista governava lì, ha avuto certo successo, per esempio, nessuno poteva essere perseguitato per religione o per qualsiasi motivo. C'era per la prima volta nella penisola arabica un movimento femminista yemenita, in quella parte perduta e sconosciuta, insomma, nel mondo, e per un periodo era una specie di libertà bellissima in quella parte, insomma. Andavano tutti gli scrittori dal nord fino a sud a rimanere lì, perché c'era davvero, si poteva dire tutto quello che pensavano senza essere perseguitati da nessun motivo o da nessuna parte, sia religiosa sia politica. Solo che poi è accaduto quello che non doveva accadere, è diventato un po' uno stato comunista stalinista, è diventata un po' pure una specie di dittatura terribile. Arrivato al 1990 hanno riunificato il paese e lì il Partito Comunista praticamente ha perso tutto totalmente, perché la gente non ce la faceva più, era una specie di reazione, e sono arrivati pure certo fondamentalismo come reazione, come risposta al comunismo che c'era prima, se anche tutto sommato non era così grave, se poteva pure... Adesso si capisce che eravamo meglio quando eravamo peggio, per dire, del sud, insomma. Si dice spesso così. Sì. E dopo la riunificazione, vabbè, poi nell'87 sale questo nuovo presidente che si chiama? È rimasto lui, il 90 ha preso il potere, lui dall'87 era presidente del nord, poi è diventato il presidente di tutto l'Yemen unificato, Ali Abdullah Saleh si chiama. Il Partito Comunista poi con certo è diventato un po' moderato, insomma, è andato, per fortuna, ha riconosciuto i suoi errori, cercato di rimediare. Nel 94 poi è andato contro il dittatore, contro il regime, solo che era troppo tardi, ha richiesto la scissione, che ritornano due paesi, due Yemen. Il dittatore non ha accettato, naturalmente ha scatenato una guerra civile nel 94, è stata una guerra civile terribile, lì mi amano una cosa che mai vista, insomma, ha mandato le tribù, hanno saccheggiato tutte le città del sud, le famiglie che famiglie conosciuti come comunisti, ati, quindi vengono condannati pure dalle moschee, facevano dei discorsi del venerdì da vari partiti islamisti che i comunisti sono ati nemici di Allah, eccetera eccetera, quindi tutto quello che avevano era a mano di saccheggiatori islamisti, era legale, anzi era una lotta per la strada del paradiso, insomma, per il paradiso, quindi era una guerra terribile sia socialmente sia politicamente. Nel 90 il Partito Comunista era visto che era il partner ufficiale e importante della unificazione del paese, era in alleanza, insomma, governativa col partito del presidente, e il Partito Islamista era fuori. Nel 94, quando il Partito Comunista è stato dichiarato illegale, per quel motivo lì solo, perché è ritornato legale, adesso è legale, non è. Il presidente ha fatto l'alleanza col Partito Islamista. Il Partito Islamista, facendo la fatwa dopo un'altra, una fatwa dopo un'altra, condannando tutti i comunisti, dichiarando che un partito blasfemo e anti-Dio, anti-Islam, quindi non poteva essere un partito governativo. Un partito governativo, nemmeno un partito conosciuto lì in paese musulmano, in cui la costituzione yemenita fatta è basata sulla Sharia, sul Corano, tuttora, cosa che non ci pensano nemmeno a cambiarla, non credo nemmeno a questa rivolta, purtroppo, che pensa a cambiare la costituzione, a mettere una costituzione civile e laica, soprattutto. Poi il presidente, come sempre, insomma, un dittatore, ha mandato via pure il Partito Islamista, che l'ha aiutato a mandare a cacciare i comunisti cattivi, e purtroppo ultimamente, per fare un'alleanza, un'opposizione forte, il Partito Comunista ha fatto un'alleanza col Partito Islamista. cosa che purtroppo di opposizione. Sì, d'opposizione, cosa che non lo vedo un buon occhio, perché non può essere, insomma. Diciamo ieri, quasi un controsenso. Esatto, un ieri simbolo, sì. Vi hanno condannato a morte, oggi date la mano a dire va bene, combattiamo insieme, non ci sarà mai una battaglia condivisa, insomma, non può essere. Però purtroppo è così. Finché stiamo arrivando, insomma, a parlare di questi giorni. Dopo la Tunisia, il sogno, insomma, che è la sorpresa enorme che nessuno aspettava. Io stavo a casa quando è sceso un amico mio giornalista a dirmi: guarda che hanno mandato via Ben Ali. E io non ci credevo. Hanno detto: no, non è possibile, nel mondo arabo questa cosa non può accadere proprio. Ma guarda, è scappato, è andato in Arabia Saudita, non sta più lì. Ma che dici, davvero, davvero, è scappato? Poi ho visto naturalmente le notizie, tutti parlavano di questo evento incredibile. Era vero, mi veniva da piangere proprio, era incredibile. Il primo dittatore, abbiamo un dittatore, il mondo arabo meno. Poi naturalmente il sogno allargava spontaneamente, nonostante adesso qualcuno dice, magari parla, queste rivolte non può essere così spontanee, sicuramente organizzate da qualcuno, da qualche... Io non dico no, però magari all'inizio no, è tutta spontanea, questo sicuro, e questo si vede, è evidente. Poi, come sempre, qualsiasi rivolta che accade, qualcuno cerca di controllarla, prende a mano tutta la situazione, e questo però viene dopo. È il motivo come scatenata la rivolta, è tutto spontaneo, questo chiaro. Almeno per me, io ci credo, credo fortemente che è spontanea la rivolta della gente, insomma del popolo. Poi è arrivata naturalmente in Egitto, che è un altro punto decisivo, era una rivolta decisiva proprio l'Egitto, quella dell'Egitto. E infatti in Yemen, prima dell'Egitto, le rivolte sono diventate più forti, dopo la Tunisia. Nel sud c'era una certa rivolta per separatisti cosiddetti, hanno cominciato fortemente, insomma, nel 2006 a fare dei manifestanti, a fare pure duri scontri, cioè, pure dei morti. Magari qui non ne parla mai, ma parla, non si sa niente della IA, sì, solo se qualche turista lì nel deserto rapiscono, magari fanno pure divertire i beduini, non è che, insomma, non è che... Purtroppo qualche morto è accaduto perché è intervenuto male l'esercito yemenita, non è perché i beduini l'hanno ammazzati, perché il governo yemenita è intervenuto male, perché giocava sul ruolo del Qaeda per ricattare l'Occidente a chiedere i soldi. Insomma, tutta questa è un'altra storia, però parlando della rivolta... Arriveremo anche a parlare, sì, di questa. Arrivando alla rivolta, in Yemen poi si è cessata un po', insomma, sono calmati per vedere come andrebbe a finire lì in Egitto, perché era decisiva quella dell'Egitto. Continuando però le stesse proteste, le stesse manifestazioni che facevano a Sanaa e a Aden, l'altra grande capitale dello Yemen del sud, insomma nel sud. L'Egitto per fortuna è andata bene, è andata alla grande, anzi insomma, purtroppo sono stati i morti, naturalmente i dittatori non è che vanno così senza lasciare una scia di sangue, è impossibile, se devono andare devono fare dei danni, non vanno mai senza, devono essere sporchi di sangue, se no non sentono bene, non lo so, non sentono soddisfatti, almeno dicono vabbè sono andato però ho massacrato non lo so quanta gente, così si sente un po', non lo so, si sentono eroi, credo, non lo so, stupidamente. Comunque Yemen subito dopo l'Egitto ha cominciato più forte, insomma, di fare la rivolta per farla arrivare al punto decisivo. E poi la Libia, arrivata la Libia, la Yemen non è mai fermato, poi naturalmente vedendo un buon occhio anche aspettando la Libia come andrà a finire, la Libia purtroppo è tuttora terribile. E lì secondo me sarà la rivolta più dura di tutto il mondo arabo, se non scatenerà un'altra in Arabia Saudita, spero tanto che sarà, è lì impossibile, però diciamo che sicuramente l'Arabia Saudita è il centro del... Sì, dopo tutte queste rivolte non credo che sarà impossibile pure in Arabia Saudita, e sarebbe ora di fare, dopo un governo religioso, insomma uno stato islamista da 1400 anni che governa non soltanto quella parte di Mecca attorno, ma tutto il mondo arabo, insomma islamico. Yemen adesso continua a fare le rivolte, sono stati un venerdì incredibile dopo la preghiera che è stata del venerdì, il presidente ha mandato di cecchini attorno alla piazza Sanà e hanno aperto il fuoco, hanno massacrato in una pochi minuti, insomma pochi minuti, quasi 52 persone, sparandoli sulle teste immediatamente e ferendo, non lo so, forse più di 200 persone. Naturalmente dopo che scatena un massacro del genere non è che la gente spaventa torna a casa, no, la gente si arrabbia di più e infatti la rivolta a Yemen è scatenata ancora più forte anche nelle altre città del paese. Ma da chi, diciamo così, la base delle persone che si ribellano in questo momento? Tu mi hai parlato anche di appunto di un'alleanza tra il Partito Comunista e il Partito Islamico. Ah, sì. Diciamo chi è che porta avanti queste proteste? Sono slegate in qualche maniera il popolo, chi protesta, chi si ribella è slegato da appartenenze religiose o politiche, chiedono anche un rivisitazione di questo oppure no? E questa è la cosa, sapevamo insomma già dall'inizio che una rivolta in Yemen sarebbe difficile perché lo Yemen non è come l'Egitto o come nemmeno come la Libia, nonostante che Libia è anche un paese tribale, però lo Yemen è più complicato, più tribale di tutto, insomma ancora vive il Medioevo per dirti. Ancora sta così, ancora con lo sceicco che comanda. Se lo sceicco fa parte di un partito del presidente, tutta la tribù segue lo sceicco, diventa parte del partito del presidente. Se lo sceicco diventa comunista, tutti quanti la tribù segue lo sceicco, diventa comunista. Non è perché ci credono, solo perché purtroppo siamo ancora a certa fase, insomma, che non è mai cambiata da secoli e secoli. Secondo me questo colpa della religione, della mentalità, di quella cultura religiosa che ancora non si può mai togliere da dosso, sta ancora vivendo lì. La rivolta a Yemen è cominciata giovanile, cominciata da studenti dell'università di Sanaa, erano pochi, seguite dalla rivolta di Tunisia, del Gelsomino e Tunisia, sono usciti fuori e hanno detto vabbè, facciamo pure noi, perché no? Il sogno è realizzabile, l'ha fatta la Tunisia, lo possiamo fare pure noi, perché questo l'effetto domino che è stato, insomma, uno dopo l'altro, è proprio così che la gente pensava prima che non poteva essere, non si poteva fare una rivolta. Poi all'improvviso hanno visto che no, è possibile mandare via un dittatore. Allora hanno cominciato tutti, e lì in Yemen sono usciti gli universitari dell'università di Sanaa a protestare. Naturalmente sono stati arrestati, picchiati, eccetera eccetera. Il partito d'opposizione, purtroppo, sia il partito comunista sia il partito islamista, non hanno appoggiato la rivolta giovanile, anzi dicevano no, facciamo il dialogo col presidente, col governo, mentre i giovani dicevano no, noi dialogo col dittatore non lo facciamo, vogliamo mandarlo via, vattene, lo slogan famoso, insomma lo slogan che si dice adesso in tutte le parti del mondo arabo, vattene, non vogliamo nemmeno dialogare, nemmeno, l'unica risposta chi se ne va, l'unica risposta, poi ne parliamo, prima cosa che se ne va. Le rivolte sono state più forti, poi l'Egitto ha vinto, la rivolta lì ha vinto, allora l'opposizione non poteva guardare così la rivolta senza prendere una decisione. E hanno preso in mano la rivolta, hanno detto va bene, allora appoggiamo i rivoltosi, appoggiamo i giovani, ascoltiamoli questi giovani. Arrivate purtroppo a ascoltare i giovani, cosa che non doveva accadere secondo me, avete rifiutato appoggiare la rivolta all'inizio, allora rimanete a parte, se non vi consideriamo come nemici, però mettetevi a parte. E invece no, hanno voluto prendere a mano purtroppo la situazione, a parlare invece ai microfoni, scansare via i giovani, prendere un microfono, a parlare nelle piazze. Il partito d'opposizione, il maggior grande partito d'opposizione è quello islamista, guidato da un capo tribale, uno dei capi più forti di tutte le tribù yemenite, insomma uno sceicco potente e forte che pochi anni fa era col presidente, per dire che fa parte della sua famiglia, addirittura fanno parte della stessa tribù, della stessa famiglia, e sono pure legate pure di matrimoni eccetera eccetera, infatti sono fra cugini e zii, insomma padri e madri, tutto in famiglia, diciamo, opposizione e governo. Esatto, tutto in famiglia, come molto spesso accade. Sì. Arrivando a questo, essendo un capo di un partito islamista, sono arrivati naturalmente tutti i tribù seguendo lo sceicco, non seguendo i giovani, seguendo lo sceicco. Lo sceicco ha detto: appoggiamo questi giovani. Allora sono arrivati tutti quando i tribali armati eccetera eccetera. Un appoggio tribale è importante in Yemen, perché la tribù che comanda in Yemen è questo ovvio. Però che vengono tutti questi tribali seguiti soltanto perché al loro sceicco, perché ha deciso di appoggiare la rivolta, non è una cosa che è buona, perché non è un appoggio sincero. Praticamente stanno appoggiando soltanto il loro capo, non la rivolta. E i microfoni, invece di sentire la rivolta che dice rivolta laica, che all'inizio incredibilmente era così. Cioè, nel senso che tra le parole degli studenti c'era la parola laica, esatto, laicismo. Tra gli slogan era una rivolta laica per uno stato laico, uno stato di una legge civile, non militare, non, nemmeno islamista, nemmeno tribale. Quindi né tribale né islamista né, insomma, dittatoriale, soprattutto fascista in modo incredibile, perché quello che è. Purtroppo adesso sentiamo no a uno stato laico, ma vogliamo uno stato religioso. Rimane com'è, quindi la costruzione yemenita fatta o basata sulla Sharia, sul Corano, rimane com'è. Cosa che non esclude tanti, sia da parte dei giovani che magari quelli che hanno chiamato di fare una rivolta laica, non sono atei, sono magari musulmani con tutti gli effetti, però non vogliono uno stato religioso, vogliono uno stato, finalmente si parla di uno stato laico. Pur essendo religiosi, insomma. Esatto, pur essendo religiosi, cosa che purtroppo adesso è sparita. Questi slogan sono stati proibiti letteralmente. Alcuni di questi amici sono stati cacciati via. Io ho un amico che sta lì nella piazza, era uno dei primi 40 a scendere nella piazza, e stava sempre giorno e notte lì, che dicevano: Aladdin, io dico arrivederci per questa rivolta, arrivederci, ci vediamo un'altra rivolta. Questa no, questa purtroppo è andata via. E io facevo parte di attivisti sul web, su Facebook soprattutto. Quando parlavo, facevo dei slogan, venivano accolti questi slogan che scrivevo sia nella mia pagina sia alla pagina di vari, insomma, siti fatti per parlare della rivolta Yemen. Ultimamente no, vengo escluso, e vengo addirittura qualcuno che mi dice: sei un pericolo per la rivolta, non parli più perché non sei accettato. E c'è che dice: no, a parlare di una cosa laica, uno stato laico, adesso è troppo presto. Ma troppo presto? Abbiamo già perso 1400 anni. Infatti siamo nel 2011. Quando ancora aspettiamo? Altri 1400 anni. Se non lo faccio adesso, nella mia generazione, che finalmente vedo una rivolta, che non è mai stata una rivolta popolare nel mondo arabo, sono sempre stata una rivolta militare, un colpo di stato, un presidente ammazza un altro presidente, prende il suo posto e così via. Oltre le uniche rivolte che sono state popolari sono quelle contro il colonialismo. E dopodiché mai, finalmente vediamo una, e vediamo una certa determinazione dai giovani, è perché non è il momento di parlare finalmente di uno stato laico, visto che se non adesso, quando mai? Aspettiamo finché non viene un'altra generazione, magari viene un altro a dire: parliamo di uno stato laico, ci sarà qualcun altro a dire no, ancora presto, e altri 1400 anni. Così. Va bene, facciamo un momento di pausa e ritorniamo subito. E quindi torniamo in diretta, stiamo parlando di Yemen, mentre insomma noi ne parlavamo così dai microfoni, stavo scorrendo le notizie che invece si pubblicano sul web. Si parla di Yemen, scontri tra manifestanti e polizia, 400 feriti, e la polizia spara sui dimostranti, 2 morti a Taiz. Si parla addirittura di Obama, insomma, sulla Repubblica. Obama dice: dopo la Libia toccherà allo Yemen, quindi abbandona dopo Gheddafi anche il presidente yemenita. E è ancora rivolta a Yemen, scontri nella notte a Hodeida, e spari su manifestanti, un morto. E appunto New York Times dice: gli Stati Uniti d'America pronti a ritirare il loro sostegno al presidente. Questa è la cosa assurda della politica, che è un gioco sempre sporco, sempre assurdo, sempre bugiardo, sempre, insomma, evidente che assurdità del genere è incredibile. L'altro ieri dicevamo, insomma, sempre i giorni passati, che Obama e i vari governi occidentali non possono appoggiare un dittatore in Yemen dandole i soldi per combattere cosiddette Al-Qaeda, come una scusa naturalmente che viene usata perfettamente dal dittatore per ricattare sempre l'Occidente a chiedere i soldi. O dateci i soldi e le armi, o io non lo so, qui Al-Qaeda comanda tutto e bombarda tutto. E lui prendeva i soldi e le armi e combatteva i separatisti nel sud e gli altri ribelli sciiti nel nord dello Yemen. E adesso viene a pensare di togliere l'appoggio a un dittatore, come se fosse abbiamo scoperto che è un dittatore, non lo sapevamo. Era chiaro, tutti dicevano che l'America stessa, Obama, sapeva che questi soldi vanno per piuttosto combattere i rivoltosi in Yemen invece di Al-Qaeda, che era una scusa, un ricatto da parte del dittatore, non nient'altro. Adesso esce fuori questa storia di mollare il presidente e lasciarlo. Veramente non è che le vedo che hanno fatto un granché, insomma. L'hanno appoggiato loro, l'hanno fatto salire loro, adesso dicono no, fanno salire un altro dittatore. Vuol dire te vattene adesso, noi abbiamo già preparato qualcun altro al posto tuo. Purtroppo io lo vedo così, è così chiaramente, insomma, perché è impossibile che lasciano il posto come lui a mano, come in Libia, come le altre parti, pure l'Egitto, Tunisia, a mano di qualche ribelle, qualche giovane o qualcuno che vuole davvero fare uno stato democratico o libero veramente. Non credo, stanno praticamente preparando qualcun altro per salire lì a quei posti. Senti, come vedi un po' tutta la situazione tra l'Egitto, la Tunisia e quindi anche lo Yemen, piuttosto che l'Arabia Saudita? L'Arabia Saudita aspetto con grande gioia di sapere qualcosa che scatena lì davvero. Sarà come le rivolte che sono state fatte qui contro il potere temporale del Vaticano, del Papa. E spero non sono mai state sufficienti, perché ancora ci abbiamo il Papa. Sì, purtroppo lo diciamo, vedo che le religioni, insomma, ancora tutto sommato il Papa ancora comanda, ancora da sotto sotto, e anche chiaramente non da sotto sotto, manco troppo sotto sotto, sì, infatti manco troppo sotto sotto. E lì sarà una cosa incredibile, sarà è il vero sogno circondare la Mecca, a dire qui fate un muro e rimanete uno stato, magari come uno stato piccolo come il Vaticano, non è problema, anzi non è che vogliamo bruciare la Mecca o Kaaba, no, però avete comandato, avete distrutto il paese, gli altri, la mentalità, la società, la cultura, l'arte, non lo so, le donne, tutto, i bambini, non lo so, per 1400 anni, basta, adesso rimanete lì, chi vuole entrare nella moschea a pregare, va, non è problema, insomma, però non comandate più, è questo, insomma. Io sono nato in Arabia Saudita, studiavo lì in Arabia Saudita, e mi ricordo che mezzogiorno preciso venivano, interrompevano la lezione per farci uscire nel cortile della scuola per pregare. A un bambino di 8 anni o 9 anni, chi gli frega a uscire lì? Fallo uscire a giocare, non a pregare a Dio, che ne sa, insomma. Naturalmente se non esce c'ha il bastone in testa, se non esce, a parte che è impossibile non uscire, però, per dire... sperando, insomma, che viene cambiata tutta questa situazione, però non lo so. In Egitto, per esempio, si parlava di cambiare la costruzione egiziana, l'hanno cambiata, e l'hanno cambiata al meglio, secondo me, per quella fase che riguarda l'elezione presidenziale, invece di mandati, eccetera, eccetera, per un presidente. Il presidente non poteva farlo più, può avere adesso, per esempio, soltanto 2 mandati, da 5 anni, credo, così hanno fatto 4, però 2, non più di 2 mandati. E questa è una cosa buona, politicamente parlando. Poi non lo so se hanno cambiato la costituzione addirittura di un stato civile, non militare. Per esempio, il presidente deve essere civile, non un generale dell'esercito. Poi si parlava di cambiare un articolo della costituzione egiziana, di farlo uno stato laico, non religioso, non islamico. Addirittura l'Azhar si è scandalizzato naturalmente, ha detto no, non se ne parla, questo articolo non si tocca. E purtroppo non se ne parla più, sparito questo, insomma. Ho sentito un po', ho letto un attimino qualcosa, sembrava un po' di almeno di speranza, che magari comincia a cambiare davvero sul serio, qualche paese arabo comincia a pensare sul laicismo sul serio, che arriva a pensare pure agli altri piano piano, come la Tunisia è stato è uno stato laico, però a modo un po' pure sbagliato, un po', perché obbligava la gente, per esempio le donne, di non mettere il velo per legge, cosa che doveva lasciata scelta. Almeno fai lo stato laico, però non obblighi tutta la gente addirittura ad arrivare in modo di odiarti, perché adesso è stata fatta la rivolta in Tunisia, la maggior parte della gente dice è stata fatta anti-laicismo, insomma, per cambiare lo stato da laico a islamico. Perché c'è che parla di ingiustizia da parte dello Stato, come era prima, di Ben Ali, cosa che purtroppo viene molto, ma molto usata naturalmente da islamisti. È molto una occasione per dire: ah, avete visto questi quando hanno fatto stato laico, che vogliono fare? Vogliono far diventare i vostri donne, non lo so, scusate la parola, puttane, eccetera, eccetera. Invece qualcosa che noi non lo vogliamo, vogliamo uno Stato islamico che rispetta le donne, che è impossibile che sente un musulmano che dice no, noi rispettiamo le donne, noi come no? Poi magari a casa lo vede un occhio gonfio, l'altra parte insomma non le vede perché c'è il velo nero che copre tutto, la donna cammina dietro, dice io rispetto mia moglie, però deve camminare dietro di me. Ma pensi che, insomma, diciamo che soprattutto di quella egiziana, noi ci siamo collegati spesso con l'Egitto, ne abbiamo parlato, lo continueremo a fare, poi verso le 11 torneremo a collegarci anche, sì, con l'Egitto per avere un aggiornamento, ma insomma si è parlato di giovani che non erano legati a partiti islamici, c'erano sicuramente, insomma, sì, i fratelli musulmani, eccetera. E pensi che invece nell'ultimo momento, nell'ultimo periodo, in queste ultime settimane, eccetera, o c'è un pericolo di un ritorno un po' più forte di partiti islamici anche? Non lo so. I partiti islamici ci sono e credo che cercheranno naturalmente di prendere a mano il potere, a comandare naturalmente, questo sicuro, perché secondo gli islamisti, insomma, secondo l'Islam, parlando chiaro, sottolineo adesso che parlando di islamisti non dico i radicali o i fondamentalisti, sto parlando di semplice gente, ma semplicemente musulmana, non crede al laicismo, non crede altro, crede Allah, al Corano, che deve, il Corano è un programma politico sociale, quindi vale per tutto. Ma non stiamo assolutamente parlando di terroristi o di certe cose, no. Parlando di partiti islamisti, sì, cercheranno con tutte le loro forze di prendere il potere. Io addirittura ho sentito che i fratelli musulmani in Egitto dicevano: per noi non è problema uno stato laico, però non lo so fino a che punto sarà vera questa cosa o no. Diciamo che sicuramente uno scambio tra Occidente e paesi arabi in questo momento sul tema del laicismo possa... un confronto, sì, nel senso che immagino che anche molte persone che sono emigrate casomai possano scambiare un po' più di idee in questo senso. Almeno spiegare esattamente che vuol dire stato laico, che vuol dire, perché lì La propaganda religiosa dice: ah, questo stato laico vuol dire cancellare la religione, non si può più pregare, non si può più dire grazie a Dio, non si può dire assalamu alaikum. Addirittura io sono ateo, quando saluto qualcuno mi dice assalamu alaikum, rispondo assalamu alaikum, dice: ah, allora crede in Islam? Ma che c'entra? Hai detto pace? Io naturalmente credo in pace, non è che ti rispondo uguale, assalam vuol dire pace, quindi non è... sì, che pensano che essere laico vuol dire cancellare la religione dalla faccia, insomma, della terra, che impedire alla gente di andare alla moschea, chiudere le moschee, magari addirittura distruggerli, che sono i nemici di Allah, eccetera eccetera, cosa che spieghiamo molto molto di più, però la propaganda religiosa è più forte, purtroppo. Più che spieghi, più che si allontana, a qualcuno ci crede, esiste e sono tanti, solo che purtroppo è questo il problema, che dicono non è il momento, è questa la cosa che io non dico che per forza deve essere adesso in questo momento un stato laico subito, ma almeno parliamone, almeno invece parliamone. Il dibattito che c'è nei paesi occidentali, penso in Italia, cioè le persone che emigrano da questi stati, no? Penso insomma allo Yemen piuttosto che all'Egitto, in questo caso la Tunisia è un po' diverso perché chi è andato via appunto erano persone più religiose eccetera. C'è una discussione sulla necessità di stati laici nei propri paesi o è semplicemente, si parla insomma, semplicemente di buttare giù dittatori e... Si parla di buttare giù dittatori solo, purtroppo, non si parla di uno stato laico, anzi non pensano nemmeno che c'è un problema o c'è un bisogno di esserlo, loro sono convinti, maggior parte della gente che sta qui, alcuni sì, alcuni condividono queste idee di una necessità di stato laico, sia di quelli che vengono qui, sia quelli che stanno ancora, sia in Yemen, sia in Egitto, gli altri paesi. Altri tanti, purtroppo la maggioranza, dicono no, non c'è necessità perché noi nell'Islam crediamo negli altri, insomma, quindi una certa libertà per le altre religioni ce l'abbiamo. Sì, ma quali altre religioni? Parliamo di cristianesimo? Non credo. Se tu non accetti di costruire una chiesa per qualche cristiano, magari in Yemen per esempio non se ne parla che a costruire una chiesa. È il motivo perché non esiste un cristiano. Va bene, allo stesso momento tu dici che accetti le altre religioni e la libertà di scelta, quindi non c'è bisogno di stato laico, ma allo stesso momento qualcuno lì non può cambiare la sua religione a dire va bene, io mi cambio invece di musulmano cristiano. Alcuni cambiano, io non vedo differenza, però alcuni cambiano e chi è, insomma, cercano di cambiare fede, vengono giustiziati ma condannati a morte immediatamente. Naturalmente non è una cosa che nell'Islam accettano chi viene convertito all'Islam, ma qualcuno che lascia, se ne va, non viene accettato. E sono un po' in tutte le religioni, sì. Quindi è difficile parlare di laicismo questi giorni. Addirittura c'è il rifiuto di parlarne, e questo la cosa che magari sarebbe grande sogno diventare davvero stati laici e stati del mondo arabo, però se non è il suo momento, io credo pure per certo punto magari sì, la gente non è pronta, però almeno parliamone, piano piano si arriva magari a spiegare prima bene che significa essere laici. Non vuol dire essere contro la religione qualsiasi, né l'Islam né il cristianesimo né qualsiasi altra religione, no, anzi vuol dire rispettare tutti. Quindi come tu fai una moschea, c'è qualcuno che costruirà anche una chiesa o magari un tempio buddista lì accanto, perché no, questo vuol dire essere laici. Sì, soprattutto a livello governativo, insomma, di stato, comunque, esatto. Non uno stato religioso. E poi pure culturale, che secondo me questa rivolta fatta per far cadere soltanto qualche dittatore da un altro, con questa mentalità culturale che esiste ancora, rischia di far salire un altro dittatore, che secondo me sta andando così, almeno quello che vedo in Yemen, ultimamente non lo vedo bene, la maggior parte dei miei amici che hanno cominciato la rivolta lì stanno lasciando. non è pessimismo, ma purtroppo una cosa del genere. La rivolta è importante, sì, ma quando vede il fratellastro del presidente, un grande generale dell'esercito yemenita, che fino a qualche mese fa massacrava la gente, bombardava di paesini, villaggi interi, oggi dice: io faccio parte della rivolta. È incredibile. È un criminale di guerra, deve essere giustiziato lui, se non prima del presidente, perché è più terribile lui che il suo fratellastro, che è il grande padre della dittatura. E viene accettato dalla piazza, cosa che è incredibile, assurdo. Non puoi accettare una persona, perché è importante un grande generale dell'esercito, e scordare subito, immediatamente, che era e che ha fatto fino a qualche mese fa, solo perché dire: ah, voi giovani avete ragione. No, abbiamo ragione, sì, ma non lo dici tu, e tu non fai parte di questa rivolta, non vuol dire, le tue mani ancora sporche di sangue, te come gli altri, insomma. Senti, tu sei un pittore. Sì. Fondamentalmente, e abbiamo visto alcuni tuoi quadri al Forte Prenestino, cioè sì. La sala da te. Non so se ci sono ancora. Ancora per due settimane. Ancora per due settimane. Per cui, insomma, io invito anche chi ci sta ascoltando a andare a vedere questi quadri, che sono molto belli, posso dire. E che raccontano un po' anche il tuo paese. Ah, sì, alcuni rappresentano una diciamo, l'Yemen socialmente è diviso, il livello sociale di caste, fatto di, cioè, caste discendente da Maometto, con una famiglia di sangue blu, diciamo. Ci sono la casta di Ceichi, sì. Come noi abbiamo le classi, noi, esatto, le classi sociali, proprio così. E ci sono gli intoccabili, e ci sono dei tribali che non sono né privilegiati come gli sceicchi, nemmeno intoccabili, sono di quelli disgraziati nel mezzo, che non contano per niente. Io faccio parte dei tribali, dei disgraziati. Nei quadri rappresentavo un po' questo problema sociale nel paese, cosa che dava tanto fastidio al regime quando stavo ancora in Yemen. Ultimamente, per esempio, negli ultimi anni in Yemen sono stato costretto a firmare un certificato, insomma una dichiarazione di non svolgere questa attività più, perché uscivo per strada nella notte, le strade di Sana'a, e dipingevo la gente che stava per strada, che dormiva per strada, che viveva nella strada. Il regime non lo vedeva bene, perché non rappresentava il paese come dovrebbe essere secondo uno stato fascista, insomma doveva essere tutto perfetto, tutto alla grande, perché il grande leader ci ha dato tutto, quindi noi l'amiamo e stiamo tutti bene e felicissimi, anzi. Quindi fare certi quadri e addirittura andare a rappresentarli, non lo so, a Dubai, nel Cairo, o addirittura a Mauritania e altri paesi, sono i posti che ho fatto delle mostre, e la gente vede e dice: ah, ma lo Yemen è bello, sì è bello, però quella parte è bella, lasciamola per i turisti, quell'altra parte sociale è quella che, se uno vuole davvero sapere com'è la situazione lì, è questa qui. Purtroppo non è una cosa piacevole, però è questa qui. E poi lasciavo entrare questa gente, per esempio i spazzini che lavoravano per strada, lasciandoli entrare nella sala ufficiale del Ministero della Cultura a Sana'a, dove si faceva delle mostre d'arte, e lì c'era il ministro magari della cultura con qualche ospite suo a vedere i quadri. Poi in mezzo a tutta la folla si trova due uomini con la divisa e spazzini con la spazzola a mano, che vanno a cercare: ah, questo sono io, quello quadro mi ha fatto a me, che è il mio ritratto. Insomma, era una cosa che non vedeva. E per questa cosa ti hanno cacciato E per questo mi hanno cacciato, mi hanno detto: tu non puoi più fare delle mostre, insomma, nelle sale ufficiali dello Stato non esiste una sala, c'è un centro culturale francese chiuso, però ha aperto naturalmente le altre, però chiuso non è aperto per tutti, quindi qualcuno che deve andare lì deve presentare un documento, quindi non è accessibile a tutta la gente. Come uno, a me preferisco fare la mostra per farla vedere a tutti quanti, non a una certa classe, certo. Solo che frequentano soltanto il centro culturale francese, perché magari hanno la tessera, no, Per questo ho fatto la mostra poi infine in un ristorante davanti alla sala del Ministero della Cultura. C'era un ristorante di un amico che accettava di appendere i quadri nel muro, insomma, dentro il ristorante. Poi, camminando per le strade a Sanaa, continuavo a dipingere. Naturalmente non facevo delle mostre, però continuavo a fare dei quadri. Una serata trovo una macchina con la gente in borghese, gente insomma tante, usciva da questa macchina. Uno addirittura stava camminando dietro di me, mi seguiva non lo so da quando per strada. Sto parlando da quasi le 3 dopo mezzanotte, qualcosa del genere. Mi hanno fermato, mi hanno bloccato, mi hanno detto: tu vieni con me, con noi insomma. Ma vengo dove con voi? Io non vi conosco, ma chi volete? No, abbiamo l'ordine di portarti via. Ma portarmi dove? Deve venire a seguire gli ordini, basta, non possiamo fare niente. C'era qualcuno per strada ancora che stava vagando lì, che si avvicinava, trova questi che tiravano le pistole all'altra gente a dire: no, allontanatevi, allontanatevi. Insomma, era una cosa surreale, incredibile. E io veramente subito ho pensato: ecco, se mi prendono via di qua io non torno più, sicuro, questo era sicuro. Avendo una buona relazione, insomma, d'amicizia con il ministro della cultura allora, che appoggiava i giovani, infatti non è durato al suo posto, insomma, l'hanno subito cacciato dal ministro. Ho chiesto aiuto da lui, è intervenuto, però a favore naturalmente di quelli, perché non poteva appoggiarmi fino alle fine, insomma. Mi hanno costretto di fare quella dichiarazione di non uscire più per le strade, nemmeno a fare disegni. E lì poi, piano piano, facendo l'attività, quella che parlavamo all'inizio di questa trasmissione, insomma, del boicottaggio alle elezioni presidenziali, conoscendo qualcuno dei servizi segreti, mi diceva: guarda Aladdin, il tuo nome nella lista nera, quindi o ti fai in tempo di fuggire, andartene via di qua, sennò sei in grosso pericolo. E io immediatamente mi viene in mente di partire. Dove vado? Al mondo arabo non è possibile, perché continuo ancora gli stessi problemi, essendo già mezzo ateo stavo, quindi dai alcuni fanatici stavo già un po' seguito, magari non tanto, però già hanno saputo che qualche cosa, già qualche idea antireligiosa ce l'avevo. Andai con un altro amico mio all'ambasciata italiana, perché io dicevo: vado a Roma, non conosco nessuno, vado a Roma, non vado a Francia, non vado in un'altra parte, perché Roma mi affascina sempre. Vedevo dei film di Pasolini, c'è un famoso film, sì, vedevo i suoi film in Yemen, naturalmente di nascosto, perché pure Pasolini è un'altra storia per lui, ma Pasolini è ancora un altro racconto incredibile, perché ci aveva una storia in Yemen, addirittura certo. Credo che hanno fatto una causa contro di lui, il governo yemenita, parlo degli anni 70, perché del film che ha fatto Fiore di Mila e una sì. Notte, insomma, questa è un'altra storia. Poi i film di Fellini, anche Roma, per esempio, vedevo il film Roma, Sanaa, e mi piaceva questa città incredibile, bellissima, ho detto: io vado lì, quella è la mia città, dopo Sanaa. Che Sanaa è Roma dell'Oriente e Roma è Sanaa dell'Occidente, secondo me è così, che sono due città un po' assomigliano pure dell'antichità, della storia storica, ognuno c'ha il ruolo suo, ognuna poi capita in una penisola, qui una penisola in Europa, Sanaa è una penisola nel mondo arabo, insomma. Allora, dell'ambasciata yemenita la risposta è arrivata dopo 2 settimane, va bene per me, mi hanno accettato. All'amico mio documentarista, no, purtroppo, hanno detto no. Non lo so perché, i motivi non ci hanno dati, i motivi perché. E lì l'amico mio ha detto: guarda, fai un tempo, ti salvi, vattene, io poi cercherò, non lo so, andare in un altro paese finché non si calmano l'acqua. Infatti è andato in Egitto per un po', qualche anno, poi è tornato. Adesso sta lì in piazza Tahrir, insomma, a Sanaa, con gli altri. Lo saluto da qua, che non mi sente, però traduco poi questa intervista, mando lui. Va bene, senti, io direi, insomma, abbiamo chiacchierato quasi un'ora e ti ringrazio tantissimo per questo racconto.